известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The reason we met with the president today, there are four of us, two former Republican secretaries of state, Democratic secretary of defense, and a Democratic chairman of the Armed Services Committee. And we are trying to make a contribution. We wrote two articles on the subject of how one can reduce the danger of nuclear proliferation and work ultimately perhaps for a world that might have no nuclear weapons. And we support the basic premise of the objective, but also we strongly support the idea that until that objective is reached, we must maintain adequate forces for deterrence. Questa è la voce di veterano, se ne esiste uno, della politica americana. Ha 86 anni, ne compie 86 tra esattamente una settimana, il 27 maggio. È Henry Kissinger, non ha ancora perso l'accento, un accento fortemente tedesco, no? Parla un inglese un po' germanizzato che diverte, tra l'altro fa sorridere gli americani. Ha appena raccontato a una giornalista della Fox, nel breve segmento che abbiamo mandato in onda adesso, di che cosa si è parlato nello studio ovale, un posto dove Kissinger sicuramente si trova un po' come a casa propria, ma dove ancora a 86 anni viene chiamato a dare i propri expertise, i propri illuminati pareri da studioso della politica internazionale, della scienza della politica. E ha raccontato perché Barack Obama lo ha convocato insieme a chi era nel corso di questo appuntamento, di che cosa si è parlato, che poi è la cosa più importante. Si è parlato di nucleare, si è parlato di possibilità di procedere a un progressivo disarmo nucleare in un futuro non si sa quanto lontano, ma si è parlato da parte sua, come ha appena raccontato, soprattutto di essere molto prudenti e di conseguenza di mantenere sempre ben fornite tutti i canali deterrenti, almeno fin quando non si avrà il dubbio o la certezza che dall'altra parte, perché Henry Kissinger è ancora un uomo del dall'altra parte, di un fronteggiamento molto chiaro, molto deciso, forse assai meno sfumato di quanto può avvenire nei scenari politici attuali, insomma, fin quando dall'altra parte si accederà ancora al nucleare. Il presidente Obama lo ha invitato ieri insieme ad altri tre grandi saggi della politica americana per discutere dunque il modo migliore per liberare il pianeta Terra dalle armi nucleari. Ed è interessante questo ricorso intergenerazionale, no? Che Barack Obama vuole in un certo senso esporre all'America e forse anche a un'America più adulta, più vecchia di lui, per dimostrare che per quanto lui sia e abbia dichiarato di voler essere il presidente del XXI secolo, l'uomo nuovo della politica del cambiamento, non per questo certo l'esperienza e la qualità delle personalità che lo hanno preceduto va dimenticata o va messa in un angolo. Non a caso insieme a Henry Kissinger nello studio ovale c'era l'ex segretario di Stato George Shultz, l'ex ministro della difesa William Perry e l'ex senatore Sam Nunn, tutti grandi vecchi, veramente nomi di prestigio assoluto negli Stati Uniti d'America, che si sono confrontati, hanno conversato su come affrontare il problema. Evidentemente in momenti come questi una conversazione di metodo, uno sguardo teorico, ma evidentemente Barack Obama di tanto in tanto vuole concedersi anche licenze di questo genere, interpretare, no, e lucubrare anche sulla natura, sulla visione di una presidenza al di là di quelle che sono poi le urgenze immediate. È assolutamente imperativo che gli Stati Uniti assumano la leadership del tentativo di ridurre la diffusione delle armi nucleari, ha poi detto in una comunicazione alla stampa il presidente americano, che sono parole importanti, anche gran belle parole, verrebbe a dire, anche se purtroppo in un momento come questo suonano soprattutto come tali, ovvero come gran belle parole. Obama comunque a luglio discuterà a Mosca con il suo pari grado, collega russo Dmitry Medvedev, la questione della riduzione degli arsenali nucleari dei due paesi. Anche per questo probabilmente ha voluto parlare con persone che con l'arsenale nucleare russo, no, hanno avuto lungamente a che fare. Tra l'altro George Shultz ha personalmente elogiato l'iniziativa di Obama di far ripartire i negoziati con Mosca per la riduzione degli arsenali. Queste sono notizie di una chiacchierata, di una conversazione tra personalità di spicco dello scenario americano, come dicevamo, su un'ipotesi teorica. Poi invece arrivano notizie che non hanno niente di teorico, hanno tanto di pratico, forse però hanno anche una punta e anche qualcosa di più di propagandistico, per cui vanno messe, a loro volta vanno collocate nel posto giusto, no? C'è un noto settimanale americano che da qualche tempo chiede ai lettori di sistemare una notizia, una qualsiasi che loro scelgono, loro propongono, in una scala che va in pratica dalla realtà al rumore, dal rumore bianco, dal rumore assoluto, una notizia che fa soltanto rumore, un cane che abbaia e che non morde, e invece dall'altra parte notizie reali, quelle che possono anche far male. Allora bisogna pensare dove collocare questa notizia che arriva dall'Iran, che ha già fatto il giro del mondo. Noi ne abbiamo letta la versione per come è stata offerta dal quotidiano progressista israeliano che si chiama Haaretz, che rende conto dell'esperimento svolto in Iran e ampiamente pubblicizzato dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, secondo il quale mercoledì l'Iran avrebbe mandato avrebbe lanciato un missile con una gittata di 1200 miglia, quindi di circa 2000 chilometri. Il lancio sarebbe andato a buon fine, tutto si sarebbe svolto secondo i piani. Il dato importante è che un missile di questo genere può colpire Israele e quindi può diventare un'ennesima minaccia diretta o indiretta, chiamatela come volete, visto il tipo di annuncio fatto da Ahmadinejad nei confronti di Israele, in quella che, se la collochiamo all'indomani, no, dell'incontro tra Benjamin Netanyahu e Barack Obama, che vi abbiamo ampiamente testimoniato ieri, ha tutta la forma di un altro gradino in una escalation, oppure, come dicono osservatori più ottimisti, una mossa diversiva in una partita a scacchi. Staremo a vedere. Il missile, per la cronaca, si chiama Sajil 2, un missile terra-terra. L'altro, in relazione a questa notizia, avrete già ascoltato al GR, ma ve lo ribadiamo, che è stata annullata la visita di Frattini, il nostro ministro degli affari esteri, in Iran. Connessa all'annuncio dell'annullamento della visita, alla richiesta di Teheran di prevedere l'incontro in una località diversa dalla capitale, per la precisione a Semnan. La richiesta però non è stata accolta dal nostro Ministero degli Esteri, che ha espresso forte rammarico per un'occasione perduta di approfondimento della possibilità, delle modalità di coinvolgimento, eccetera eccetera. Ma insomma, di fatto ci si è lasciati così, senza proseguire in quella che avrebbe potuto essere una iniziativa interessante, forse da portare avanti. Vedremo, chissà. Altri particolari arrivano sulla data del 4 giugno al Cairo, all'Università del Cairo, in una iniziativa di pace, adesso viene chiamata così, elaborata dalla presidenza, dallo staff della presidenza americana, insieme con Re Abdallah di Giordania, basata sull'iniziativa di pace saudita 2002. Avverrà questa ormai già celebre comunicazione del presidente americano al mondo islamico. La stampa israeliana pubblica oggi i primi primi dettagli, cita tra l'altro informazioni apparse anche sul quotidiano Al-Quds Al-Arabi, che finora non hanno conferma ufficiale. Il piano in questione, a cui farebbe riferimento Obama, prevederebbe la costituzione di uno Stato palestinese, quindi una proposta decisa di rottura, uno Stato palestinese indipendente, democratico, smilitarizzato, dotato di continuità territoriale tra Cisgiordania e Gaza, anche grazie a modifiche di confine e con Gerusalemme Est per capitale, nella città vecchia di Gerusalemme, dove sono concentrati luoghi santi importanti alle tre religioni, per le tre religioni monoteistiche, sventolerebbe la bandiera delle Nazioni Unite. Da parte sua, il mondo arabo procederebbe alla normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo Stato ebraico aprirebbe prima uffici di interesse e poi rappresentanze diplomatiche in ogni capitale araba, e turisti israeliani avrebbero in quei paesi piena libertà di movimento. Il piano prevederebbe inoltre negoziati di pace paralleli tra Israele da un lato, Libano e Siria dall'altro. Ai profughi palestinesi verrebbe infine offerta la scelta se restare nei paesi dove risiedono attualmente ricevendone la cittadinanza, oppure rientrare nel nuovo Stato palestinese. Una proposta organica, organizzata, assai ambiziosa, sinceramente, visto gli esiti dei discorsi Netanyahu-Obama, per quello che sono stati resi pubblici ieri, le controreazioni già esposte con un certo, appunto, slancio propagandistico dall'Iran oggi, molti dubbi restano riguardo al seguito pratico, pragmatico, che una proposta di questo genere potrà ricevere, almeno in tempi brevi. Di fatto Barack Obama sembra che proprio di questo, in modo, con tutto il suo slancio, con tutto il suo carisma, con tutta la sua voglia di rimettere gli Stati Uniti al centro di questi scenari in una chiave benigna e diversa dal passato, di questo parlerà. È un momento chiave che come tale va individuato e atteso. La data è vicinissima, ci mancano 2 settimane, poi capiremo se veramente un intervento così di rottura potrà portare a un ridisegno di questi complessi scenari. Sarà la nostalgia di fine primavera, caro Emiliano, che mi fa suonare questi dischi di belle band note, che non note. Esistono più. Questi sono i J-Hawks, no? Come i Granddaddy di ieri, band che molto abbiamo amato, che se ne sono andate ormai, come dire, nel piccolo cimiterino delle band, ma che restano però al centro del nostro cuore. E io lo so, queste invocazioni ricorrenti, perché qui si parli di NBA, ma ragazzi, c'è un programma che parla di basket a Radio 24, anzi, ci sono tutta una serie di diramazioni, di partecipazioni illustrissime, no? E poi il venerdì c'è proprio un angolo, appunto, c'è cioè, palla spicchi, poi insomma, grande seguito sia a quello italiano che quello americano. Però Joel qua mi dà una notizia che sicuramente molti, non vi do i risultati delle partite NBA, non abbiate paura, non temete, non vi do neanche i pronostici perché non so, sono così un po' confuso, però invece ci dice che evidentemente ha seguito su internet i i pre-sorteggi, insomma, i Los Angeles Clippers, la squadra più sfigata dell'NBA a tutti gli effetti, proprio per definizione, si è beccato la prima scelta al draft. Cioè, quindi, sono i cugini poveri dei Lakers. Ma che cugini poveri, cioè, proprio... sono quelli che non ce la faranno mai. E però hanno beccato la prima scelta al draft, che vuol dire che sceglieranno per primi, e pare proprio, tutti dicono, i ben informati, quelli che la sanno lunga, che la prima scelta al draft di quest'anno dovrebbe essere Ricky Rubio, il pibe d'oro del basket spagnolo, un playmaker giovanissimo, subito star, quando era ancora minorenne, e chissà se con Ricky Rubio, loro che hanno anche Baron Davis, ma qui stiamo andando, insomma, vai sul roba difficile, non capisce molto come sti disgraziati mai riuscissero a decollare. Comunque, almeno questa notizia, ringrazio Joel, che spesso e volentieri tra l'altro ci incita a parlare di basket, ma noi siamo gente seria e guardiamo a 360 gradi. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Vuoi che parlo di Ricky Rubio? No, stavo pensando però che Obama, dopo i pronostici sull'NCAA, non ha più parlato di basket, mi sembra, no? Si è dato una calmata. Non può fare i pronostici sull'NBA, pronostici, no. Ma credo gli spari. Non si azzarda, è pericoloso. No, no. Terreno di scontro politico, forse. Insomma, sarei, sufficientemente scandalizzato. Va bene, allora veniamo alle pompose, sontuose notizie economiche dalla Cina, perché insomma, in questo nostro lungo viaggio, prima di Jefferson Ming, adesso di Jefferson, ormai biennale, abbiamo imparato a capire che l'8 è il numero magico, il numero fortunato, certo, per i cinesi, certo. Ci hanno costruito tutta una Olimpiade di Pechino attorno, e l'8 è anche quella percentuale, quell'8% soglia minima di sopravvivenza per la crescita economica di un paese da 1 miliardo e rotti di cinesi, e quindi sotto quella soglia si va in crisi. Ebbene, in questi giorni il più autorevole comitato economico cinese, il Dipartimento degli Affari Fiscali e Finanziari cinesi, ha solennemente giurato, promesso che anche il 2009 chiuderà rispettando la tabella di marcia, quindi la Cina segnerà un bel più 8% nel PIL, e noi che languiamo molto sotto zero, noi italiani e in generale Europa, che credo navighi su una media del 3% in rosso, insomma, non possiamo che invidiare la Cina. Naturalmente la botta di orgoglio cinese. Naturalmente non mi sono fatto mancare la telefonata quotidiana con il nostro Saro Capozzoli, sì, che gongolava, perché addirittura con una punta di sarcasmo mi ha detto: ma avevi dubbi che i cinesi, che noi cinesi, perché ormai io non so se Saro contribuisca più al PIL cinese che al nostro, però insomma, tutti e due. Fa entrambi i ruoli, ricopre entrambi i ruoli. Ebbene, insomma, lui era gongolante per questo risultato annunciato dal governo cinese, e poi mi ha mandato una bella tabella spiegandomi, come sempre, che un dato così importante non è però monolitico per i cinesi, perché ci sono tante regioni. Quindi, per esempio, quando a suo tempo il PIL generale della Cina era del 13%, c'era la provincia del Zhejiang, che è vicinissimo a Shanghai, che addirittura faceva segnare un'impennata del 54%. Quindi, considerando che ci saranno ancora regioni in grossa difficoltà come il Guangdong, che ha purtroppo per lei il suo destino legato alle esportazioni, avremo sicuramente delle regioni che viaggeranno ben sopra il 10%. Quindi, insomma, comunque Cina che continua a essere un locomotore, se non la locomotiva il del locomotore, mondo. Certo. Guantanamo, c'è oggi su New Republic, un ottimo settimanale americano, un articolo che dice troppa roba da maneggiare, questo è il titolo. In realtà l'articolo è una specie di previsione del veloce tramonto del gradimento del popolo americano, dell'elettorato americano nei confronti di Barack Obama, non perché non si dia da fare, ma perché ne ha troppe da fare. E secondo questo dotto articolo a firma di John Jardine, alla fine inanellerà alcuni successi, ma inevitabilmente beccherà anche alcune sconfitte, e queste sconfitte andranno a infrangersi sul gradimento degli americani nei suoi confronti. Una questione che puzza un po' di bruciato per quello che riguarda la proposta e anche le progressive variazioni offerte a Barack Obama è proprio Guantanamo, e adesso si viene a sapere che i democratici hanno detto di no al piano di Barack Obama di chiusura del centro di detenzione di Guantanamo, che non voteranno il finanziamento fin quando l'amministrazione non avrà detto chiaramente che cosa vuol fare una bella grana dei questa. Detenuti, certo, sono 80 milioni di dollari, quindi non una cifra stellare, visto i bilanci che girano attorno alle questioni di guerra e sicurezza negli Stati Uniti d'America. Ma alcuni senatori, come il numero 2 dei democratici del Senato, Dick Durbin, hanno presentato il no come un rinvio di alcuni mesi, hanno lasciato intendere che non vogliono che prigionieri detenuti a Guantanamo mettano piede in America. Commenti di Dick Cheney ce ne sono, no? Starà ridendo sotto i baffi. No, però c'è un bel editoriale di Maureen Dowd per gli amatori della grande editorialista americana, che dice che forse a Cheney potrebbero offrire un terzo mandato extra speciale per la gestione di Guantanamo. Vi lascio immaginare. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Thank you all for coming to the White House today and for coming together around. Obama dice grazie per essere venuti alla Casa Bianca oggi, in quello che considero essere un accordo storico per aiutare l'America a liberarsi della sua dipendenza dal petrolio, ridurre la pollution, cominciare la transizione verso una economia di energia pulita. Questo è un appuntamento straordinario. Dietro di me ci sono 10 dei più grandi fabbricanti di automobili del mondo, ci sono anche personalità dell'ambientalismo e anche rappresentanti del governo e di altri governi. È un evento straordinario perché molte di queste sigle, nonostante interessi diversi e vecchi disaccordi, adesso hanno accettato di lavorare insieme. E così ha dato il via Obama, dopo aver dato anche, come dire, aver suonato parecchi tamburi per annunciare questo evento. Così Obama ieri ha aperto un incontro che dovrebbe essere un punto di svolta nel suo programma. Come sapete, ai primissimi posti tra quelle che lui considera le priorità assolute della sua visione, del suo mandato presidenziale, esiste il passaggio a forme di energia diversa e pulita, che naturalmente contribuisca ad alleggerire il peso della spesa nei confronti delle forme di approvvigionamento petrolifero, innanzitutto per l'America di oggi. Sono state formulate delle proposte pratiche che ora analizzeremo anche insieme a un ospite. Prima però vi faccio sentire che cosa di tutto questo argomento, nei dintorni di questo argomento, ha detto Emiliano Enrico Anthony Giddens, sociologo, politologo londinese, ben noto, insomma, un nome di rilievo internazionale, il teorico della terza via che portò al trionfo di Blair, ospite alla nostra Camera dei Deputati a un convegno su clima, ambiente, sfide dell'economia occidentale sul tema Growing and Greening the Economy, ovvero facendo crescere e facendo diventare verde l'economia, promosso dal Centro per un Futuro Sostenibile, guidato da Francesco Rutelli, e dal Center for American Progress, diretto da John Podesta, uomo dello staff di Clinton e ora vicino a Barack Obama. Sentiamo come ci risponde Anthony Giddens alla prima domanda che gli abbiamo fatto, che è questa: il cosiddetto Green New Deal di Obama è possibile o è semplice utopia? No, credo che ci sia un forte elemento di realismo, perché per recuperare da una recessione ci devono essere grandi investimenti e in particolare quelli a sfondo ambientalistico possono essere particolarmente adatti. Naturalmente c'è molto lavoro da fare, perché molte persone vanno in giro a dire che questi investimenti creeranno diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma prima di essere conteggiati, questi posti di lavoro andranno confrontati con quelli che invece all'inizio verranno persi. Quindi bisogna fare un grosso sforzo prima di poter capire e dire quanto queste proposte saranno efficaci. Tuttavia vanno sostenute e a me piacerebbe che queste idee fossero applicate anche in altri angoli del pianeta. I'm pleased that it's been adopted in many countries across the world. Dunque abbiamo in linea Marco Magrini, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali e climatiche, già diverse volte ospite nella nostra trasmissione. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a voi. Dunque, prima di tutto, prima di arrivare proprio allo specifico della proposta di Obama e magari a qualche considerazione al riguardo, vorrei un tuo punto di vista invece su quello che ha appena detto Giddens, che ha, ha messo una piccola zeppa nel meccanismo, no? Tutto questo ciclo virtuoso che dovrebbe, ad esempio, portare a tante centinaia di migliaia, milioni di nuovi posti di lavoro, lui dice occhio. Sì, forse li guadagniamo di qua, ma non è che li perdiamo di là, nell'industria sporca, non so come dire. È un ragionamento da fare questo, Marco? Ma io in questo credo di poter dar ragione a Obama quando dice che per esempio l'industria americana dell'automobile deve cominciare adesso la battaglia per arrivare a costruire l'automobile del XXI secolo, e l'automobile del XXI secolo servirà a General Motors, a Chrysler, a Ford per restare sul mercato, perché il mercato in maniera crescente chiederà delle auto che sono molto molto più efficienti di quelle americane oggi e soprattutto che incorporino tecnologie, sto parlando da qui a 10, a 20, 30 anni, che siano veramente pulite, che ci portino nella nuova fase del XXI secolo, ovvero abbandonare gradualmente e più rapidamente possibile i combustibili fossili. Ecco, ma questo discorso, questo appunto che faceva Giddens sulla creazione di nuovi posti di lavoro, che però secondo lui può corrispondere a una perdita da un'altra parte di posti di lavoro, è un conteggio che va fatto? Ma è un conteggio che va fatto, però ripeto, qui si tratta sempre di lungimiranza. Di lungimiranza, certo. E quello che sta facendo vedere Barack Obama, devo dire molto onestamente, al contrario del suo predecessore, è che sta pensando all'economia americana non dell'anno prossimo o da qui a 5 anni, ma da qui a 20, 30 e 40 anni. Certo. E da questo punto di vista è ovvio che si perderanno dei posti di lavoro, ma le prospettive di crearne altri completamente nuovi, sani in funzione della nuova economia verde, che non è in realtà una scelta volontaria, è una scelta inevitabile, perché le questioni ambientali, riscaldamento climatico eccetera eccetera, dobbiamo il più rapidamente possibile allontanarci dai combustibili fossili. E questo, ecco, si riallaccia molto alla decisione di ieri di alzare lo standard dell'efficienza delle macchine americane. Certo. Perché già nel 73, dopo il primo shock petrolifero, il presidente Jimmy Carter fu lui che propose la legge per questi standard, perché si temeva che ci sarebbero state altre occasioni nelle quali c'erano mancanze di fornitura di petrolio, difficoltà nella fornitura di petrolio, grazie. E quindi bisognava in questa prospettiva migliorare quindi l'efficienza delle automobili. La legge fu fatta nel 75, all'inizio produsse dei risultati, poi il prezzo della benzina calò drasticamente e tutti in America se ne dimenticarono. e tornarono a viaggiare sulle autostrade a bordo delle loro astronavi. È vero del resto che una delle cose che più volte Barack Obama ha ribadito è: io non voglio fare uno o due mandati di presidenza dicendo delle cose e poi ritrovarmi io come cittadino americano fra 30 anni e sentir parlare di piani per l'assistenza sanitaria generalizzata, piani per un'economia verde e quant'altro. Ma sempre in riferimento a quanto ora ci ha detto Marco Magrini, ascoltiamo di nuovo invece Anthony Giddens, sempre interrogato da Emiliano Enrico, ci propone un commento sulla alleanza come sapete, in fieri fra Fiat, Chrysler, forse Opel, insomma il mondo dell'automobile che si ridisegna e si ripensa. Ed ecco quali sono i giudizi di Giddens. Poi daremo la linea al traffico e poi torniamo in studio con Marco Magrini. Well, I think the issue is not really a merger. Più che una fusione, è una vera e propria trasformazione dell'industria automobilistica americana. Negli Stati Uniti c'è bisogno della Fiat per tornare all'avanguardia nel settore delle auto. Non possiamo più andare avanti con questo stile di vita basato sulle auto tradizionali di oggi. Bisogna sperimentare nuovi sistemi e nuove tecnologie. In particolare, credo che nel breve periodo vedremo potenziato il sistema di trasporto pubblico, anche su base privata. Non so se lo sapete qui in Italia, ma a Londra, ad esempio, esistono già molti club automobilistici che mettono a disposizione un numero elevatissimo di macchine in vari punti della città. Ne noleggi una quando ti serve, ma non sei il proprietario di tutte queste automobili. Automobili che sono molto efficaci e moderne dal punto di vista dei consumi. In sostanza, dobbiamo guardare avanti e al futuro dell'automobile. È necessario in particolare che le grandi case siano all'avanguardia e non rappresentino soltanto i propri interessi in modo tradizionale. We need the big car manufacturers to be in the vanguard of that thinking and not just represent traditional interests. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. Insomma, abbiamo davanti una rassegna stampa telematica che ruota attorno al discorso, alla proposta di ieri formulata sul mercato automobilistico da Barack Obama. Nuove regole trasformeranno la flotta americana delle automobili, nuovi standard per le emissioni, ma poi ci sono anche le pulci nell'orecchio: i consumatori spenderanno più soldi e soprattutto, attenzione, la sicurezza ne potrà soffrire. E sapete cosa ci hanno messo per terrorizzare l'americano medio? Ci hanno messo la foto di una Smart, caro Marco Magrini. Far vedere una Smart agli americani, no? È come parlare di corda in casa dell'impiccato. Non capiscono, non si spiegano cosa vogliamo da loro. Che dici? Esce di si bestemmia per loro. Certo. No, il problema vero è che l'intera società americana è basata sulle macchine che consumano tanto, che fanno tanti chilometri e sulla benzina che costa poco. La battuta che faccio sempre io è che a Los Angeles devi prendere l'autostrada anche per andare a comprare il pane. Sembra una battuta, ma non è lontana dalla verità. È vero. L'intera società americana è basata su questo. E credo, rispetto a quello che diceva Giddens prima, no? Appunto il fatto che l'industria automobilistica americana ieri era alla Casa Bianca schierata accanto al presidente, apparentemente contenta di questi nuovi standard di efficienza delle automobili del futuro imposte dal presidente, però ricordo che le lobby dell'industria americana fino a un anno fa avevano combattuto strenuamente tutti i tentativi di legislazione più stringente sull'efficienza automobilistica. Certo. Se posso aggiungere questo, certo. E tutto è basato sul fatto che la benzina negli Stati Uniti costa poco. Cioè, ho appena fatto dei calcoli, ho visto che in questo momento, cioè oggi, mediamente la benzina in America costa $2.3 al gallone, ovvero 0,60 centesimi di dollaro al litro. Una volta tradotto in euro viene 43 centesimi al litro. Quindi 30% del nostro prezzo, certo. Esattamente, un terzo del nostro prezzo. E certo. Questo il presidente Obama, anche per lui, sembra un tabù intoccabile, perché non a caso ieri ha detto uno dei vantaggi che ci sarà per il consumatore americano è che alla fine con delle macchine che consumano meno spenderanno meno quando fanno rifornimento. Per spiegare ai nostri ascoltatori, Marco, i buoni propositi, o in un certo senso il nuovo canone è stato espresso, dietro hanno battuto le mani i grandi costruttori, si stanno salvando i poli che non possono essere salvati, ma poi che succede? Come lo vedremo concretizzare questo cambiamento? Che cosa succederà? Semplicemente le grandi industrie automobilistiche americane, e sottolineo americane perché la giapponese Toyota è il numero due sul mercato americano dietro a Ford, ma certo. La Toyota si sta occupando di efficienza dei veicoli già da più di 10 anni, cosa che i costruttori americani non hanno voluto fare, e adesso devono investire pesantemente in ricerca per trovare nuovi carburanti, motori più efficienti e così via. E sappiamo, questo è un fatto di cronaca di oggi, che il legame fra la Fiat e la Chrysler deriva proprio dal fatto che la Chrysler non ha minimamente la tecnologia che invece la Fiat dispone per fare dei motori largamente più efficienti di quelli americani. Va bene, grazie a Marco Magrini. C'è tutto un cinema da ripensare, c'è tutto un immaginario americano, ci sono quelle autostrade con quelle corsie così larghe, c'è anche, come dire, la nostra fantasia che ha galoppato, no? Sugli American Horses. Adesso vedremo il nuovo formato degli American Horses, saranno un po' più dei pony, mi sa. Jefferson 2, l'arte da svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte, la mail Jefferson 2 @radio24.it. Su Facebook abbiamo due pagine, redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, per continuare, e non vi preoccupare, riprendere i nostri dibattiti. Andiamo in replica a mezzanotte, il podcast è sul sito della radio, la diretta è domani dopo le 4 qui su Radio 24.